Cucciù. Cucciù, Cucciù. Ciao, dottore, buongiorno. Buongiorno, anche a lui, dottore. Ascolta, sto provando questa radio, com'è? Non è che sia bella, ma è 5 comunque. Non ho capito, dottore. La radio è buona, solo che non è strana, sembra che ce ne siamo un po' tanti, vedi? E che c'è senso? È una modulazione un po' chiusa rimane, vedi? Aspetta, è così com'è? Così va meglio, è più chiara. Aspetta, così ha migliorato? Sì, lascia così. Ora che sta a cambiare i bucciantini bisogna registrarla, capito? Allora, si bene. Ascolta, questo UPDNLCR cosa vogliono dire? Sono filtri? UP. Ho capito, c'è scritto up down, così è. Allora, c'è un pulsantino singolo dove c'è scritto UP, poi ne ha un altro singolo, c'è scritto DN, poi ne ha un altro ancora singolo, c'è scritto LCR. Cosa sono, filtri? Penso di sì, non lo so che malattia è, che apparecchio è? Un Intec. Guardate canali, con le bandate radio o normale? Normale, normale. Quale attaccare normali, cioè, le bande? Ja, va bene. Aspetta un attimo. Aspetta Mario Mao.